l'aurora si sveglia e desidero te. Il giorno trionfa e desidero te. La notte, Samantha di magiche ombre, ed ancora desidero te. Dammi un bacio sulla bocca, dammi un bacio ancora, dimmi t'amo. E sempre t'amerò. Sarà dolcissimo sognare amore vicino a te, fra le tue braccia rinnovare di giorno in giorno la primavera. Dammi un bacio sulla bocca. Dammi un bacio ancora e la vita sempre mi sorriderà. L'arcobaleno dei miei sogni nel cielo vedrò. Dammi un bacio e sempre t'amerò. Un bacio sulla bocca, dammi un bacio ancora e la vita sempre mi sorriderà. L'arcobaleno dei miei sogni nel cielo vedrò. Dammi un bacio e sempre t'amerò. Per un tuo bacio sulla bocca, eternamente t'amerò.